della figlia di Ceo e Febe, che aveva sangue di titani nelle vene, l'onnipotenza avida dell'aquila sfuggita in mare si tuffò da uccello travestita. Vedendola affogare, in isola la volle trasformare, da stella scoglia steria tra le onde incastonata, da allora come Delia è conosciuta. Chissà se poi per caso, per antica omonimia, storicamente dedita ai culti della luce, sarà la gente mia. Battono e al cielo che respira. È stanca del teatro della stupidità umana. Sapete che vi dico? Mi scotolo di dosso i parassiti. Rompo gli ormeggi. A navigare, anzi no, come una tartaruga negli abissi a sprofondare, anzi no, con un boato di mare e di terra mi tiro su, stravolgo la battaglia. Wow.